Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. E 10-7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, Il riposo del guerriero fino a mezzogiorno insieme per parlare oggi di qualcosa che dovrebbe divertirci e coinvolgerci molto, almeno una volta al giorno ci vorrebbe la terapia che oggi sto per raccontarvi. Prima però vi ricordo l'appuntamento di Guardi in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa l'ingresso alla mostra a Venezia e al catalogo anche della mostra, ammesso che riusciate ad associare una delle opere di Guardi alla canzone che vi faccio ascoltare adesso. Com'è triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te. Eccolo qua, questo è il quadro che dovete indovinare legato a questa canzone, devo dire che è veramente molto semplice, e dovete chiamare questo numero, adesso ve lo sto per dare, poi si giocherà alle 11:40 circa, 800 24 00 24, volete prenotarvi già da adesso. Per quanto riguarda invece Il riposo del guerriero, oggi giocheremo. Allora, ci sono i giochi che fanno parte della nostra vita. La vita è un gioco, non sempre, però insomma ci sono dei momenti in cui dovrebbe esserlo, perché il gioco sicuramente ha un grandissimo valore educativo, insegna a partecipare, a considerare, a rispettare le regole, per cui sono tutte cose che poi ci troviamo a dover affrontare nel corso della vita. Del gioco oggi parliamo, in particolare parliamo del gioco da tavolo, ovviamente, quello che spesso Natale ci fa riunire tutti insieme, familiari e non, e che ci fa passare del tempo in spensieratezza, ma anche ragionando, e questo è particolarmente importante. Il gioco, tra l'altro, insegna anche proprio a mettersi in gioco, cioè quindi svelare anche una parte di noi stessi. Di questo parliamo con un ludologo che è appena arrivato in questo momento, perché ci sono sempre le giornate particolari, arriva da Modena e gli si è rotta la macchina, mi dispiace, ma tra poco lo sentiremo, Andrea Ligabue. Ma per partire con la puntata non potevo che iniziare con i Queen. Play the game, infatti giochiamo, cerchiamo di iniziare a farlo. Andrea Ligabue, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, se c'è un po' di fiatone in Andrea, cioè perdonatelo, perché sta correndo da Modena, stamattina è stata una giornata abbastanza complicata, non tanto giocosa. No, esatto, un inizio impegnativo, no, sembrava di essere in un videogame. Esatto, in un videogioco, esatto, parleremo anche di questo, ma inizialmente no, nel senso che la puntata oggi è dedicata proprio al gioco da tavolo. Il tuo mestiere, infatti, è curioso. Tu sei un ludologo che non esiste. Esatto, è un mestiere che non esiste e anche una parola che non esiste. Tant'è vero che quando ho dovuto registrarmi con la commercialista non sapevo in che categoria inserirmi. Infatti, che categoria sei? No. Consulenza generica. No, io la mia idea era che il mondo del gioco è un mondo in crescita. Secondo me il gioco è un fenomeno molto interessante e non esistono, o almeno in maniera ufficiale, in Italia delle figure che siano consulenti in questo mondo e tra virgolette esperti, cioè come esistono i critici cinematografici e i critici nel mondo dei libri, non esiste una figura analoga, o almeno non una figura professionale, nel mondo del gioco. Io ho provato a inventarmela, partendo da quella che era la mia passione. Io gioco da quando sono nato, poi in maniera costante da quando avevo 16 anni. Ecco, scusa una parentesi, tutti giochiamo da quando siamo nati, e questa è la cosa curiosa. Poi a un certo punto perdiamo il gusto di giocare e lo facciamo più, oppure ci spaventa, diventiamo adulti e quindi, ah no, giocare è una parola, insomma, è quella parola gioco che rende le cose un po' più complicate. Questo vale per il gioco in generale, gioco da tavolo, il videogioco, insomma, quando c'è gioco abbiamo sempre qualche problema, credo più psicologico che altro, ecco. Io dico sempre che, conoscendo tanti giochi da tavolo, è solo diciamo, la questione di trovare il gioco giusto per la persona nel momento giusto. Cioè ogni persona ha, secondo me, un gioco che gli apre il cuore, un gusto, e lo fa, sì, e dopo gli ravviva quella che era una passione che in realtà, secondo me, non muore mai. Bisogna capire il titolo giusto. È chiaro che, ad esempio, a chi non ama la fantascienza non posso proporre dei titoli di fantascienza. Ma io questo... per esempio non ho mai giocato a Risico, perché non amo il genere. Poi in realtà, ma è un fatto, il gioco in sé è molto interessante da tanti punti di vista. Tu sì e no, però è un gioco molto famoso, sì, diciamo così. E invece magari preferisco giochi come Scarabeo, ecco, mm-hmm, dove ci sono, no, le parole. Esatto, quello che è strano, diciamo, nel fenomeno, nel mondo del gioco da tavolo, è che la conoscenza comune è ferma ai grandi classici, sì, cioè come se uni letteratura mi parlasse e dicesse ci sono Manzoni, cioè della commedia e basta. E invece c'è un sacco di altra roba, esatto, tra l'altro anche tanta italiana. Sì, diciamo il settore italiano è molto vivo, cioè abbiamo una forte creatività, ci sono delle aziende medio, piccole, molto molto forti, delle aziende grandi molto forti e tanti tanti autori italiani che pubblicano anche per aziende estere, quindi diciamo la nostra creatività, la fantasia degli italiani nel campo del gioco da tavolo sta riscuotendo molto successo. Ti comunico che avremo anche Andrea Angiolino dopo, ecco, al telefono, proprio di questo, esatto, parleremo, proprio del successo dei giochi italiani all'estero. Il riposo del guerriero. Mentre Tina ci scrive intere nottate a giocare a Risico, che incubo, però va bene perché... Sì, sì. Allora, no, ci sono i grandi classici perché sono quelli che si regalano di solito, no? Sì, perché purtroppo nel mondo del gioco da tavolo c'è questa tendenza in cui nessuno legge le regole dei giochi e nessuno vuole imparare nuovi giochi. Non so, io penso che nessuno negli ultimi anni abbia letto le regole del Monopoli, del Risico o della Briscola e quindi si regala quello che si conosce. Io il Monopoli l'ho giocato da piccolo, lo regalo, però è come se io a mio figlio per Natale regalassi un disco dei Beatles o un film di che Fellini. Va bene, non è che sia, sì, sbagliato, no, va bene, fa parte di questa, della libreria e della cultura che devono avere, però non c'è solo quello. Ecco, senti, allora, e prima di addentrarci nel mondo dei giochi, poi se avete le domande, le curiosità, anche come si fa il mestiere, come si creano per esempio i giochi, che mercato c'è, ma ne parliamo anche con altri ospiti, e quindi potete scrivere le vostre domande al 349-238-6666. Io volevo anche chiederti, Andrea, a un certo punto tu sei riuscito a portare il gioco nelle scuole, sì, in che modo? Allora, diciamo, io vivo in una realtà fortunata, cioè Modena è comunque un'amministrazione che è sempre stata attenta a, diciamo, gli aspetti culturali legati soprattutto all'infanzia e ai bambini e, diciamo, quindi c'è sempre stata attenzione nel confronto di quelle che potevano essere alternative alla didattica tradizionale. Tra l'altro a Modena abbiamo l'istituto storico che lavora da anni in collaborazione con un professore dell'Università di Bari sulla didattica della storia tramite il gioco. E in quel modo lì, diciamo, io ho approcciato l'assessore all'istruzione, che è sempre stato molto vicino agli eventi che organizziamo a Modena sul gioco, e mi sono dedicata a fare della formazione agli insegnanti sul mondo del gioco e poi degli interventi in classe. In contemporanea, seguendo il percorso dei miei figli, nelle scuole dei miei figli ho istituito delle ludoteche e ho iniziato a fare dei laboratori di giochi partendo dalle scuole dei miei figli, che hanno avuto successo e si stanno espandendo un po' a macchia in tutta la città. Come sei riuscito a convincere che il gioco è un'espressione culturale importante? Secondo me il mio cavallo da battaglia è dire che il gioco è un veicolo non tanto di contenuti ma di competenze. E ad esempio la strategia e la tattica, che sono delle doti fondamentali nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, nella, sì, ricerca, così la scuola con gli insegnamenti frontali non riesce a insegnarla. Una simulazione di qualsiasi tipo, cioè un gioco in cui c'è interazione con gli altri, programmazione, obiettivi, insegni in maniera naturale e divertente queste cose. Secondo me è importante che la scuola prepari in questo percorso. Poi col gioco si possono insegnare la matematica di base per i più piccoli, si può insegnare il rispetto delle regole, il rispetto del turno, come si legge un regolamento. È drammatico, secondo me, il fatto che nessuno sia più in grado di leggere il regolamento di un, non so, di un forno a microonde, del cellulare, cioè si procede per tentativi. Ecco, secondo me insegnare ai bambini che tra i vari testi letterali esiste anche il regolamento, e quindi che ha una sua struttura, che si legge con degli obiettivi, è importante. Quindi, diciamo, questi argomenti qua hanno convinto un'amministrazione che, dicevo, comunque è già molto sensibile a questi temi. Ecco, interessante, anche io citavo all'inizio del programma il rispetto delle regole, no? Che possono anche essere cambiate se poi tutti i giocatori sono d'accordo, esatto, e questa è la democrazia, appunto, e quindi è interessante anche questo aspetto. E però adesso tu hai aggiunto una cosa che non avevo mai pensato, che è il rispetto del turno. e in effetti il gioco insegna ad aspettare il proprio turno, perché non si può agire nel momento in cui deve agire un altro giocatore. Spesso, insomma, non in tutti i giochi, ma in molti succede questo. Esatto, poi secondo me il gioco insegna quello che un tempo insegnava al cortile, cioè se io sono da solo mi annoio, se ho degli amici o delle persone con cui giocare mi diverto, ma li devo rispettare, cioè devono divertirsi anche loro. Quindi quello che insegna il gioco insegna secondo me ai bambini innanzitutto a imparare a perdere, a gestirsi la competizione, ma anche imparare a vincere, cioè sapere che il vincere significa ok, mi sono divertito, ma non significa distruggere il mio avversario anche da un punto di vista psicologico, perché sennò il giorno dopo sono da solo a giocare. Questa cosa qua nelle scuole io vedo che emerge molto, cioè una discussione a fine partita, ma dai, sei stato solo sfortunato, e questo qua secondo me è molto positivo come anche perché la fortuna entra in gioco in molti titoli ovviamente, sì. Basta il lancio del dado, esatto. Lavinia Capresi, buona domenica. Grazie, buona domenica a voi. Eccoci, allora, ho preso un marchio famoso che è Hasbro Italy, insomma pubblica tantissimi giochi molto molto popolari, per capire Lavinia come va un po' il mercato del gioco, il gioco da tavolo in modo particolare, vista la crisi economica. Quindi forse magari se prima si era più propensi ad acquistare una scatola, oggi invece magari ci si è fermati di fronte a questa propensione, oppure no, non è così, non lo so, Lavinia, tu. Ma allora, non del tutto, nel senso che il mercato dei giochi in scatola è sicuramente un mercato maturo ma anche molto solido, quindi diciamo che negli ultimi anni, nonostante molti comparti di consumo abbiano risentito molto della crisi, il gioco in scatola ha tenuto botta molto bene. Possiamo dire che quest'anno in realtà siamo lì che guardiamo con molta attenzione i dati, perché stiamo supponendo che i consumi si stiano spostando molto molto a ridosso del Natale. Questo è un classico meccanismo del gioco in scatola nei momenti in cui appunto la crisi economica si fa sentire. Assolutamente i giochi in scatola diciamo che vengono percepiti dai consumatori come un investimento nei confronti del tempo passato con i propri figli e con i propri familiari, quindi compro il gioco in scatola oggi ma non lo butto tra due mesi, insomma probabilmente continuerò a giocarci anche per i prossimi 10 anni a venire. Ecco, sì, dei grandi classici hanno sempre successo, sì. Sì, assolutamente, si sono reinventati, quindi abbiamo per esempio il Monopoli che è diciamo il 25% di quello che è più o meno la proposta di Hasbro, e riesce sempre a introdurre anche nuove novità, nuove versioni per mantenere sempre viva l'attenzione dei consumatori nei confronti di questo grandissimo gioco, ma anche Allegro Chirurgo, Indovina Chi, insomma tutti i grandi classici che hanno fatto un pochino la storia dell'infanzia di ognuno di noi sono sempre sulla cresta dell'onda. Ecco Lavinia, quanto la tecnologia si sta unendo al gioco in scatola to court, quindi con i pezzi di cartone e di plastica per intenderci? Ma diciamo che sta iniziando ad esserci un'interessante commissione tra i due mondi, perché se una volta il videogioco, la classica console, permetteva agli utenti di giocare solamente con il computer, vediamo che oggi ci sono tutta una serie di social game, digital game, quindi con le applicazioni oppure i giochi attraverso Facebook e gli altri social network, che permettono comunque anche un'interazione con altri utenti. Quindi l'elemento sociale che mancava nel classico videogioco al giorno d'oggi appunto subentra nelle dinamiche del gioco online. Con la rete in questo senso ha aiutato molto, infatti poi ne parleremo anche, perché hai una domanda, sì. No, volevo dire, il gioco, la parte della componente elettronica sta proprio anche entrando fisicamente nei giochi da tavolo, sì. Sono sempre di più gli esempi di giochi che inseriscono parti elettronici, piccoli computerini, un tipo di interattività, quindi c'è anche proprio una commistione fisica tra i due generi. Io ho una versione, per esempio, non so se esiste ancora, di Cluedo, di qualche tempo fa, che è parlata, nel senso che è elettronica e c'è il maggiordomo che dice le cose ed è molto divertente, perché sembra di assistere a una sorta tra un telefilm, un film e un gioco in scatola vero e proprio, per cui la commissione in effetti c'è, e sono elettronica, può anche venire d'aiuto in questo senso. Grazie Lavinia Capresi, tu la vedi bene, comunque il gioco resta. Gli italiani come si comportano da questo punto di vista, Lavinia? Giochiamo o li compriamo e basta, secondo te? No, giochiamo molto. Devo dire che a novembre noi abbiamo avuto una meravigliosa iniziativa che è stata appunto la settimana del gioco in scatola. Ne abbiamo parlato, infatti. Esatto, esattamente. Che ha dimostrato quanto gli italiani abbiano voglia di giocare. C'è una città che ha vinto, se non mi sbaglio, giusto? Adesso non esatto, ricordo. Esatto. Gaeta. Gaeta ha sbaragliato tutti. chissà perché, vabbè, però mi fa piacere saperlo. Grazie Lavinia, ciao, buona grazie domenica. Grazie a voi, ciao. Ciao altrettanto. È bello ritrovare le famiglie che giocano, però avevamo sentito anche dei ricercatori dove alla domanda ai figli, i genitori giocano con voi, la risposta era prevalentemente poco, e invece chiedendo ai genitori, voi giocate con i vostri figli, la risposta era molto, per cui io credo di più ai figli probabilmente. Anch'io. Di cos'è che hanno paura i genitori, secondo te? Non hanno tempo, hanno voglia di leggere le famose regole, come funziona? O di spiegarle anche? No, secondo me c'è una mancanza proprio di cultura ludica diffusa, e quindi il genitore si trova a fare col proprio figlio dei giochi che alla fine per un adulto sono noiosi, perché non conosce la vastità di titoli che ci sono, che possono essere divertenti sia per il figlio che per l'adulto. Io ad esempio con mia figlia tutti i giorni, quando lei torna da scuola, abbiamo una mezz'oretta in cui giochiamo ai giochi da tavolo. Sono giochi da tavolo di un certo livello, divertono me, sono gli stessi giochi che io magari alla sera gioco in associazione, quindi non è un dramma da quel punto di vista lì. È che chiaramente se sono sempre i soliti 3-4 titoli che vengono proposti, o comunque vengono proposti titoli che sono specifici per bambini, il genitore alla lunga secondo me si annoia, o comunque non riesce a trovare delle motivazioni. Ecco, ci sono ovviamente anche giochi per amore di bambini, ma anche per adulti. Cioè, sì, per adulti nel senso che non infraintendetemi, no, giochi per adulti uno pensa subito a un certo settore. Non è quello che volevo dire io. Giochi destinati a un pubblico, sì, adulto, perché gli argomenti e anche magari le difficoltà delle regole non sono giuste per un bambino. Sì, questo è vero, anche se io dico che un bambino educato all'abitudine del gioco, quando comincia ad avere 10-11 anni, è in grado di fare qualsiasi gioco che gioca un adulto. Comunque sì, ci sono dei giochi con target 13+, 14+, ad esempio il titolo attualmente più di successo nel ranking mondiale dei giochi è Twilight Struggle, che è un gioco di simulazione sulla guerra fredda molto molto bello, che simula tutti gli anni della guerra fredda. Ecco, questo chiaramente è un titolo che io non lo proporrei a un bambino, sì, però ad esempio per gli adulti è un successo strepitoso. Ecco, non lo proporresti perché il tema è la guerra, o non lo proporresti perché il tema è quel tipo di guerra? No, in realtà non lo proporrei principalmente su un bambino piccolo, perché è un tema molto difficile da spiegare. Cioè, sì, quando un bimbo gioca a qualcosa, ad esempio con mio figlio gioco a un gioco sulla seconda guerra mondiale molto semplice, e sono inevitabili le domande, quindi chi sono i tedeschi, chi sono gli americani, cosa è successo. Quindi su un tema come la guerra fredda, colto in contropiede, cioè affrontare il discorso con un bimbo non è facile, mentre sulla seconda guerra mondiale ci si può parlare. Anzi, i giochi spesso sono uno stimolo, secondo me, per il genitore, per iniziare a fare certi tipi di... Quindi non è la guerra in sé, no, il limite, il muro, ma il tipo, sì, che è quindi più difficile da spiegare, anche da comprendere nei suoi meccanismi. E anche la complessità proprio del gioco, che comunque non è un gioco semplice. Quello. Ecco, in quel caso, giocare a un titolo di questo genere richiede anche una conoscenza storica, o la conoscenza storica non è importante? Col titolo in specifico, diciamo, non è fondamentale, però sicuramente aiuta, perché il gioco si sviluppa tramite delle carte evento che rappresentano tutti gli eventi che sono successi negli anni della guerra fredda, reali. Quindi sì, avere un'idea di cosa può succedere o di cosa ci si può aspettare sicuramente aiuta, cioè capire su quale nazione ad esempio tendenzialmente sono rimaste filo americane, quale filo sovietiche. Questa cosa qua aiuta per fare tra virgolette gli investimenti giusti durante il gioco. E d'altra parte anche io ho imparato tante cose che le mie lacune storiche mi avevano lasciato sulla guerra fredda proprio giocando a Twilight Struggle. Vabbè, anche il successo di Trivial, sì, e poi dei giochi che sono seguiti con le domande sono serviti proprio anche a conoscere un po', come le parole crociate, esatto, no? Come dice... Topolino ai nostri tempi. È vero, ma anche adesso, meno male, ma che ancora un italiano interessante e molto buono lo si legge su Topolino, esatto, e spesso non lo si legge sui quotidiani. Il riposo del guerriero. Ma quante domande? Meno male che abbiamo un pubblico che gioca, questo mi fa molto piacere. Allora, è possibile inventare un gioco in scatola e proporlo alle aziende? Sì, succede, sì, abitualmente. Ci sono anche proprio, ad esempio, proprio a gennaio, tra un po' a Piossasco, c'è il raduno nazionale che si chiama Idea G, degli inventori di giochi, che è un'occasione per confrontarsi con altri autori e proporre alle aziende. Quello che dicono i libri seri di game design, dicono che prima di fare un gioco bello di solito uno deve scartare i primi 10 giochi che fa, perché non sono... Certo. Però sicuramente quella lì ad esempio è un'occasione, le aziende sono tutte molto recettive in questo senso. Chiaramente inventare un gioco secondo me significa anche conoscere bene l'argomento, quindi io suggerisco a tutti, prima di inventare un gioco, di giocare 30, 40, 50 giochi diversi almeno, per avere un'idea di cosa c'è già. Già c'è il nome game design. Cioè, game design già mi fa capire che siamo in... quando c'è design su qualcosa, ormai il livello è più alto. Sembra, almeno per... Invece, ludologo va benissimo, mi piace di più. Ti proporrò un gioco che avevo fatto tanti anni fa. Allora, vorrei sapere se Ligabue, quindi sei coinvolto tu, può consigliare un buon wargame da tavolo del tipo ricostruzione storica di battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Questo scrive Antonio. Allora lì dipende molto dal target. Allora, se il target è un gioco facile entry level, cioè quindi che si può giocare, ad esempio lo gioco già con mio figlio di 6 anni. Entry level è per chi comincia, sì, no, per devo chi, tradurre, scusa, no, perché tu usi termini inglesi. È che è sbagliatissimo, è bruttissimo e me ne vergogno. Gli ascoltatori perché... non capiscono, poi lo scrivono, esatto. Non capiamo niente. Perché l'italiano è un bel linguaggio, bisognerebbe impararlo a usare bene. No, è un gioco, diciamo, per iniziare sicuramente è Memoir 44. Purtroppo il regolamento è Memoir 44, che è un gioco tattico sugli scontri della Seconda Guerra Mondiale. Poi c'è Dixit, è un gioco di nicchia a mio avviso molto aggregante, si basa su intuizione e non richiede particolari doti strategiche, va bene per tutte le età. Grazie a questo ho aumentato di molto la mia rete di amicizie, lo scrive Rita. Allora è curioso che definiscano Dixit un gioco di nicchia, perché Dixit ha vinto il premio come miglior gioco dell'anno in Germania qualche anno fa ed è in assoluto uno dei giochi per appassionati più venduti in Italia. Quindi il fatto che però un gioco che nel nostro mercato dei giocatori appassionati è assolutamente un best seller sia ritenuto gioco di nicchia da un pubblico generalista è significativo di come il nostro mercato possa ancora crescere tanto. E sai che è vero che il mercato è vero, ma è la questione di atteggiamento che abbiamo verso il gioco, da lì bisogna partire. Il mercato li propone, siamo noi che abbiamo sempre dei problemi in questo senso. Il board game, ovvero gioco da tavolo più spettacolare, io voto Battlestar Galactica. Ancora? No, Battlestar Galactica è un titolo nuovo, tra l'altro molto bello perché è un gioco semi... Ah, perché è il titolo di un vecchio videogioco. Sì, ecco, è dal titolo della trasmissione... quella la serie fine. Ed è un gioco collaborativo molto simpatico perché ci si gioca in fazioni, ci sono gli umani e i siloni, però non si sa all'inizio della partita, gli altri non sanno chi è il silone che sta giocando contro l'astronave, come briscola chiamata, sì, insomma. Esatto, ed è veramente un titolo nuovo molto interessante. Irina Mora, buona domenica. Mica tutti. Insieme ad Alberto hanno scritto il dizionario dei giochi perduti. Cos'è che abbiamo perduto? I giochi non ne abbiamo perduto nessuno, credo, Elena. Li dobbiamo recuperare forse, ma perduti no, mi sbaglio. Dobbiamo recuperarli, perché in realtà è un mondo che si è un po' perduto, in cui i bambini avevano degli spazi per giocare e degli umani per giocare, nelle nostre 60 sfumature di nostalgia, che ci sono 60 giochi in questo libro. Sì. Ci sono i bambini di una volta che potevano anche soltanto dirsi nel cortile giochiamo a prendersi e da lì iniziava un'amicizia. Ecco, beh, però è anche vero che sono cambiati gli strumenti, però ti garantisco che ne abbiamo parlato anche prima, è vero che la rete per esempio fa nascere comunque amicizie e quindi non bisogna demonizzare in questo modo il fatto che non ci sia magari il contatto fisico, gli spazi sono diminuiti, però la voglia di conoscere e di fare amicizia resta. E che cosa c'è? Quali sono dei giochi che voi avete raccolto in questo dizionario, Elena? Che tu vorresti recuperare, e non so, il caleidoscopio credo che sia tra i 60, giusto Elena? Il caleidoscopio tra i 60. Perché quello è un gioco un po' solitario, francamente, no? Ti metti lì, guardi e poi dopo 3 minuti dici vabbè è stato bello. E cos'è che secondo te emoziona del caleidoscopio? La meraviglia di vedere delle forme che nascono, e questo è curioso che molti web designer lo usano anche, sì, per creare delle pagine, ancora adesso il caleidoscopio. E la meraviglia soprattutto è quando, almeno quello ci ricordiamo noi da bambini, quando tu apri questo oggetto che ti crea delle immagini strepitose e ci trovi dentro 3 pezzettini di specchio e 2 pezzettini, sì, di vetro, e allora veramente capisci che tutto può nascere da pochissimo. Ecco, la cosa bella infatti del caleidoscopio secondo me era costruirselo. Perché è facile da costruire, basta prendere gli specchietti da borsetta della mamma, ecco. No, parla pure, perché allora, dovete sapere che Andrea mi alza la mano come si fa a scuola. Posso parlare io? Parla. No, io volevo chiedere una domanda a voi che avete fatto questo bel libro e in generale a questi, diciamo, interesse che c'è per i giochi antichi, che secondo me è molto bello perché sono comunque tradizione e cultura. Quanto c'è nel mitizzazione che si fa del gioco antico, quello che dicevamo prima, cioè erano i giochi che noi giocavamo da piccoli, uno ha smesso di giocare e quindi collega il gioco che faceva con in realtà quelle che erano delle sensazioni che un bambino moderno potrebbe avere Piuttosto che col caleidoscopio, con un'altra cosa. E questo che io mi chiedo, voi che avete fatto un dizionario, ci avrete sicuramente ragionato più di quanto ci ho pensato io, cioè quanto questo amore per il gioco antico, più che per il gioco in sé, è legato al fatto che vi riporta a noi grandi in mente quelle che erano delle sensazioni passate. Certo, un po', cioè, è ovvio che, come abbiamo detto, sono 60 sfumature di nostalgie, però per esempio alla fine di una presentazione con mio fratello avevamo portato un pacco di foglie di carta colorati e abbiamo detto ai bambini: se volete venire vi facciamo le barchette, vi facciamo gli aeroplanini, vi facciamo questo origami che noi chiamavamo Inferno e Paradiso, uno che si apre e si chiude, sì, sì, e si possono comporre dei disegni, dei colori e delle parole. Beh, non solo i bambini sono arrivati tutti fino a quando Alberto ha avuto la pazienza nelle mani di fargli aeroplanini e barchette, ma dopo se li lanciavano e riprovavano a farli a casa, quindi in qualche modo è un gioco che permette di recuperare delle cose con anche senza internet. Io per carità uso internet, mi sembra di star sotto l'albero di Natale ogni volta che mi collego, perché essendo di una generazione passata ho il mondo in mano mia, però anche questi giochi, al di là del valore della nostalgia, hanno dei valori di socialità e di manualità che adesso, nei giochi di adesso, sì, non ci sono. Ecco, su questo concordiamo. È anche vero che ci sono dei giochi straordinari che sono fatti solo di carte, molto semplicemente. Esatto. Quindi è molto vero come oggetti molto semplici che si possono anche disegnare si possono trasformare in qualcosa che riesce a divertire una sera intera. Esatto. E questo è un bellissimo recupero, in effetti. Elena, ti ringrazio. E a te e tuo fratello, ho capito giusto, Alberto? Alberto, che sì, ha scritto il libro con te. Lo ricordo, il dizionario dei giochi perduti. Buona Cairo Editore, buona domenica, grazie ancora. Buona domenica, ciao, grazie. Ciao. Allora, Andrea, arrivano tanti messaggi e ringrazio gli ascoltatori ovviamente e molti, adesso non li voglio leggere tutti, ma chiedono una cosa, dei giochi alternativi a Monopoli, a Tabù, a Risico, che sono gran bei titoli, però le famiglie vorrebbero giocare qualcosa di nuovo. Uno in particolare, Cristina ad esempio, dice: mi piacerebbe la sera stare con i miei figli di 11 anni, 15 anni, mio marito, e non davanti alla televisione ma davanti a un buon titolo. Perfetto. E chiedevano un consiglio. Allora, se sicuramente tutti i titoli che hanno vinto lo Spiel des Jahres sono titoli significativi. Già, che cos'è? Lo Spiel des Jahres, cioè, scusate, perché è il premio come miglior gioco che danno ogni anno in Germania. Perché in Germania? Perché in Germania, sì, c'è una cultura del gioco più avanti rispetto a noi, quindi proprio faccio un elenco di titoli: Carcassonne, I Coloni di Catan, Ticket to Ride, Seven Wonders, Zoloretto. Questi cinque possono riempire. Io Zoloretto, quando l'ho preso, l'abbiamo giocato io, mia moglie e mia figlia in un'estate più di 40 partite senza mai venire alla noia, ad esempio. Quindi queste sono proprio buttati lì cinque titoli che mi vengono in mente. Senti, tutti in italiano tradotti? Sì, si trovano tutti in italiano. Adesso Zoloretto forse ultimamente si fa più fatica a trovarlo, perché non so se ce l'abbia ancora un italiano in distribuzione, però sono tutti giochi che tra l'altro hanno una complessità di regolamento molto, diciamo, sotto il livello della difficoltà ad esempio del Monopoli. Quindi sono giochi che hanno anche dei regolamenti semplici, però hanno una profondità strategica e una rigiocabilità molto molto alta. Ci racconti un gioco che hai inventato e pubblicato? Sì, ce l'ho qui davanti. No, quello non è un mio gioco. Allora, io no, contrariamente, io approccio il mondo del gioco con grande umiltà, nel senso, sì, io gioco tanti giochi ma non mi sento in grado di inventare un gioco, non ho quello spunto lì, anche perché secondo me inventare giochi è un mestiere che richiede tempo e dedizione. Io sono volubile, gioco un gioco, poi ne voglio provare un altro e non ho fatto da playtester per tante aziende, quindi mi hanno sottoposto dei prototipi fatti da degli inventori, sì, chiedendomi dei pareri, di raffinare delle regole. In quello mi sento capace, però diciamo proprio giochi inventati al momento no, e non è neanche mio interesse, come ti dicevo prima, microfoni spenti. Secondo me è anche importante che ci siano delle figure di giocatori ed esperti che non siano autori. Senti, i genitori come si cosa ti dicono dopo che hanno visto magari i risultati che hai ottenuto con le tue lezioni di impariamo a giocare? Poi cosa insegni quando insegni a, esatto, giocare? No, allora, ecco, diciamo, la cosa che a me sorprende sempre e che è segno di quanto il gioco non è ancora penetrato nella cultura italiana è che c'è quasi un 100% di riscontro tra gioco che propongo e il genitore che dice: che bello, lo compriamo e ci gioco a casa. Quindi proprio vuol dire che, e questo è brutto perché per me è anche una forte responsabilità, perché io, diciamo, conoscendo tanti giochi, conoscendo tante aziende, devo anche poi fare delle scelte senza voler spingere in particolare uno o l'altro. E cosa apprezzano i genitori? Innanzitutto apprezzano un veicolo per stare in una maniera divertente con i loro figli, ma che sia divertente anche per l'adulto, perché io dico sempre la maniera migliore per stare con i bambini è se ti diverti, cioè se tu fai qualcosa che ti diverte loro lo percepiscono e si divertono anche loro. Se io mi devo annoiare a passare 2 ore con un bambino, lui lo percepisce e si annoia anche lui. E poi sicuramente dei giochi che quindi siano facili come regole e abbiano permettano al bambino di fare scelte. Io dico sempre, ad esempio, il gioco dell'oca, che è importante per la tradizione e tutto quello, è un gioco tremendo, perché non esiste nessuna scelta, il bambino assiste, sì, è come una slot machine. Sì. E invece, secondo me, anche già partendo dai 4-5 anni, è importante che i bambini, nel corso della partita, facciano delle piccole scelte. Poi, ovvio che l'imprevisto, la fortuna, il ma tiro del dado, parte della vita, ci sta, ci sta. Sì. Però poi l'altra cosa che dico sempre ai genitori, che loro rimangono sorpresi, è che i bimbi devono vincere. Cioè all'inizio bisogna farli vincere i bimbi, anche a costo di imbrogliare, nascondere, perché per un bambino si affeziona a un'attività se questa attività per lui è gratificante. Quindi se io, molti genitori ce l'hanno, ho un approccio, il gioco è una scuola di vita e come nella vita si vince e si perde, quindi giochiamo 4 partite, il bimbo ne perde 3 perché sei più piccolo e meno preparato, il bimbo dice ma perché io devo farmi una scuola di vita nel momento di svago? Nel momento di svago mi divertirò. Quindi l'altro suggerimento che do sempre ai genitori che loro apprezzano molto è giocare all'inizio, che sembra banale, facendo vincere i bambini, poi man mano aumentando la difficoltà, abituandoli a perdere ogni tanto, però per il bimbo deve essere gratificante l'esperienza di gioco. Sì, sennò può diventare un trauma alla esatto fine. Poi dopo alla fine rifiutano il mezzo. Stefano Masci, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a voi. Stefano Masci ha scritto: giochi nella formazione aziendale, l'utilizzo di modelli di consulting integrato in azienda, perché i giochi in azienda servono, si dovrebbero poter giocare. Assolutamente sì, credo che ormai non ci sia formatore o consulente aziendale che non applichi nella formazione d'aula anche una grande parte di esperienziali, role playing, psicodrammi. Ecco, che giochi normalmente sono preferiti? Adesso noi oggi stiamo parlando dei giochi da tavolo, ma i giochi, insomma, ci sono, le linee sono molto molto diverse. Quali sono quelli che un'azienda dovrebbe preferire, Stefano? Ma vanno molto quelli sulla leadership, c'è anche una componente di moda, credo che ormai non ci sia manager, dirigente, piccolo o medio che non abbia fatto un corso sulla leadership o che non sia mai stato in barca a vela, perché c'è insomma sono molto di moda corsi di questo genere. Quelli che propongo io alle aziende sono esperienziali basati sugli argomenti teorici che possono servire a un responsabile di risorse, un team leader, ecco, dirigente. Ma si tratta di giochi di ruolo, per esempio, dove ad ognuno viene assegnato un compito e appunto un ruolo, oppure sono giochi che si basano anche, non so, invento, su delle carte, sul lancio dei dadi, non so, hanno anche componenti di questo anche genere. Questo. Diciamo che al contrario di Andrea Ligabue, sono uno che si diverte molto ad inventare giochi. Bene. E tra l'altro li prendo dalle esperienze, per sì, cui il gioco di ruolo che propongo nasce da una situazione casomai che è stata portata da un partecipante. Certo. E quindi gli faccio mettere proprio una rappresentazione e gli faccio scegliere nel gruppo delle figure di riferimento che possono essere quelle con cui è entrato in conflitto, per esempio nel suo gruppo, il suo capo o un suo collaboratore, e diventa un'esplicitazione di dinamiche, quindi nella finzione, nella simulazione. Sì, però dinamiche poi reali che sì, ovviamente, che poi nella vita poi si manifestano. O anche giochi di carte, ecco, anche propongo anche giochi di carte. Ecco, c'è una domanda per te, ma ci risponderai dopo il traffico. La domanda. Ok, mi toglie la curiosità. Io volevo sapere, uno che si occupa come lei di formazione tramite il gioco, quanti giochi diversi conosce, quanti giochi prova ogni settimana nuovi o ogni mese? Cioè, quanto è la sua parte di ricerca del mercato per capire se ci sono spunti e titoli interessanti? Il riposo del guerriero. Parliamo di giochi in generale oggi. C'è Andrea Ligabue, che è un giornalista, un ludologo, con me qua, che è molto piacevole anche ascoltare. Stefano Masci al telefono, che ha scritto giochi nella formazione aziendale. Allora, c'era la domanda per te, Stefano Masci, la tua risposta. Cioè, quanto giochi? Insomma, questo fondamentalmente ti chiedeva Andrea. Gioco molto. E diciamo, sono passato da un'adolescenza in cui chiaramente facevo giochi di tavolo e giochi di ruolo, erano quelli che si facevano con gli amici, a giocare nelle aule o nelle sale riunioni delle aziende. E sulla domanda di Andrea devo dire che faccio molti giochi, li sperimento, e poi ogni tanto mi dimentico i giochi e mi rendo conto che applico delle varianti, e casomai la variante mi piace di più del gioco originale. Quella è l'esperienza, funziona proprio così. Grazie Stefano Masci, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Grazie. Ecco, io ad esempio apprezzo molto quei titoli, i giochi in scatola, che hanno le doppie istruzioni, ovvero le istruzioni per il gioco, diciamo, base, e poi le aggiunte che puoi mano a mano inserire per rendere il gioco più complesso, anche più interessante, però che non devi affrontare immediatamente, perché è un buon modo per non... Sì, questo è un suggerimento che a tutte le aziende che mi contattano per dei pareri do sempre. Cioè, secondo me occorre un regolamento base che permetta alla famiglia di non giocatori di avvicinarsi al gioco e trarne comunque piacere. Poi eventualmente un regolamento avanzato, che però non è necessario, come ti dicevo. Ad esempio Ticket to Ride, il titolo di cui ti parlavo, l'autore in un'intervista diceva che le regole potevano essere scritte sul retro di un biglietto da treno. Cioè, nel senso, non occorre che ci sia un regolamento complesso per fare un gioco profondo. Senza fare però il gioco dell'oca, no, esatto. Ecco, perché sennò lì è l'estremo opposto. Allora, mi consigliano Bindolo, a me che piacciono i giochi di parole. Bindolo non lo conosco, non lo conosci, mi spiace. Vabbè, quindi Bindolo conosciamo. E invece ci chiedono di rifare quella classifica che hai fatto dei giochi. Sono usciti a segnare solo Zoloretto. E no, basta. Allora, non è una classifica, avevo suggerito 5 titoli che mi venivano in mente, ed erano Carcassonne, Ticket to Ride, I Coloni di Catan, Seven Wonders e Zoloretto. Ed erano 5 titoli che hanno tutti vinto questo premio in Germania, quindi diciamo non ho voluto esprimere delle mie preferenze, ma anche dare dei dati, insomma, un pochino... Scusami, io sto leggendo perché arrivano tanti di quei messaggi. Zigiti Cranium, dico bene? Zigiti Cranium, non so, non è scritto così, manca a me un titolo. Quindi vi inventate anche gli ascoltatori, si trovano dei giochi sconosciuti. Allora, per dare un'idea, però, io sono un esperto, però solo alla fiera di Essen quest'anno hanno presentato 800 titoli. Allora, non è umanamente possibile che certo. Anche uno che si spaccia per esperto li conosca tutti e li provi tutti. No, vabbè, lo sai, comunque, adesso non vorrei. Tra l'altro volevo anche ricordare che c'è un sito di Andrea Ligabue, sì. Ce n'è un altro che anche chiamano Liga. Sì, che ha più fans di me. Va bene. Che è ludologo.com, sì. Anche perché ligabue.com sarebbe stato un problema, e forse l'hanno anche già pescato. E quindi dicevi, i genitori poi comunque cominciano a conoscere il gioco e poi portano questa esperienza anche a casa, comunque di solito. Diciamo, spesso sono i bambini che portano a casa. Ad esempio nella scuola dei miei figli e nelle altre scuole dove abbiamo iniziato delle ludoteche, abbiamo iniziato a fare il prestito a casa e abbiamo visto che ai bambini piaceva portare a casa il gioco che avevano giocato nel laboratorio e farlo in famiglia. E questo era anche bello da un punto di vista educativo, perché era una volta tanto il bambino che andava a dire ai genitori: sono io il protagonista e sono io che vi insegno qualcosa. Quindi anche questo gioco delle parti che si invertivano. E, diciamo, quindi da questo punto di vista qua, sicuramente... Cioè, un gioco di un certo tipo, di qualità, spiegato, insegnato ai bambini e fatto giocare... E riportati in famiglia, se c'è una famiglia ricettiva, è una fonte importante. Poi io dico sempre, quando i figli cominciano ad avere 13, 14, 15 anni, in cui diventa difficile avere esperienze comuni da condividere, cioè la loro vita si allontana da quella dei genitori. Se c'è un'abitudine al giocare insieme, può essere anche un'occasione settimanale, quotidiana, insomma, a seconda di come uno vuole, anche per fare qualcosa insieme in un momento in cui le strade si stanno un po' allontanando. È una bella proposta. Per un Comenius... Abbiamo creato un gioco da tavolo con il regolamento di istituto e in Germania, dove lo abbiamo presentato, siamo stati sul giornale addirittura. Quindi vedi, dal regolamento di un istituto si può anche creare un gioco. Gianfranco scrive: io fabbricavo letteralmente per anni il gioco del Giro d'Italia con Gazzetta dello Sport alla mano, disegni, colori, nomi e numeri incollati su un cartoncino e ritagliati e via, 120 cartoncini in giro per casa e poi classifiche a buoni e tutto, le montagne, i libri, le Alpi, i vocabolari. Facevo anche la telecronaca alla De Zan. Se vuoi, c'è un bellissimo gioco che si chiama Leader One, fatto tra l'altro da un'azienda italiana che è la Genos Games, che è proprio un gioco sulle gare a tappe ciclistiche e 2 anni fa è stato nominato il gioco ufficiale per quell'anno lì del Giro d'Italia. Quindi è sicuramente un titolo, se sei un amante del ciclismo, che ti suggerisco. La tua passione? Quali sono i giochi che ti appassionano di più? Allora, a me piacciono molto i giochi a tema fantascientifico e fantasy. Io sono nato come giocatore di ruolo in sede al Club Tremme, che era l'associazione di giocatori di Modena che esiste dal 1981, quindi la più antica d'Italia. E quindi tutti i giochi che hanno un tema fantasy o fantascientifico mi piacciono molto. Forse il titolo che preferisco più di tutti è Twilight Imperium, che però è un titolo che non suggerisco perché è un gioco che una partita può durare 6-8 ore. Sì. Quindi bisogna avere del tempo, sì, da perdere, direbbe però qualcuno. È un gioco secondo me molto profondo e interessante, però gioco, in realtà gioco un po' di tutto, perché gioco con i miei figli, uno di 6 anni e uno di 12, che quindi fanno giochi diversi, gioco con mia moglie, alla sera gioco in associazione. Dico sempre che secondo me il gioco è anche frutto del gruppo con cui giochi, quindi con alcuni si possono fare giochi di un certo, sì, tipo, con altri divertirsi in tutte le maniere. Le scuole mano a mano si sono passate la voce, da, sì, noi c'è un ludologo, ma tu quando insegni, tra virgolette, sì, a giocare, durante le ore del mattino oppure ci sono ore create apposta nel pomeriggio? Allora io sono partito con dei laboratori pomeridiani, sì, che diciamo mi permettono anche di lavorare a piccolo gruppo, che secondo me è più facile. Piuttosto che con la classe intera, però quest'anno proprio ho iniziato seriamente il progetto invece anche nelle scuole alla mattina e quindi vado a fare un intervento di 2 ore nelle classi. L'intervento di solito consiste in un 20 minuti, mezz'oretta in cui presento il gioco, spiego le regole e poi si dividono i bambini in gruppo. In classe io faccio giocare i bambini a coppie, cioè ogni giocatore in realtà è una coppia di bambini, perché in questo modo loro sono costretti a pensare alle scelte che fanno, perché devono convincere il loro partner che la scelta sia giusta. Quindi essendo che è un esercizio scolastico, loro riflettono di più rispetto a uno che gioca da solo, che magari può fare una scelta avventata. Siamo in due, se io dico voglio far così, l'altro mi dice ma perché devi far così, scusa, facciamo. E quindi questo secondo me crea, chiaramente allunga un po' i tempi di gioco, si gioca per circa un'oretta e un quarto, i giochi che propongo di solito hanno quel lasso di tempo lì, e dopo io concedo sempre una mezz'oretta di debriefing finale in cui mi diverto anche a chiedere ai bambini: ma voi che giochi conoscete, vi è piaciuto questo, secondo voi chi ha vinto è stato perché è stato fortunato, è stato bravo, quindi anche una riflessione su come è stata la partita e sulle regole. Chiaramente dipende dalla classe, ad esempio io quest'anno ho iniziato a lavorare molto sulle seconde elementari ho proposto dei giochi che sono, diciamo, che introducono una matematica di base, delle piccole scelte. Lavorando magari con una scuola superiore si può fare delle cose diverse. Ad esempio c'è un autore polacco che ha fatto un bellissimo gioco che si chiama Prêt-à-porter sulle aziende di moda, gli è stato commissionato dalla banca polacca come gioco per una scuola superiore per insegnare a fare azienda ai ragazzi. È un gioco anche molto bello, un gioco che avrebbe dovuto essere molto italiano, esatto, no? Da un certo punto di vista. Il riposo del guerriero. Un po' sorrido, intanto buona domenica ancora da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero su Radio 24, sono le 11:06, dicevo un po' sorrido perché ho cambiato il titolo da rubrica che era videogiochi, è diventata giochi e videogiochi, e perché sto un po' allargando, e la quantità veramente pazzesca di messaggi che stanno arrivando sia su Facebook e sia via SMS mi fa pensare che comunque sia un argomento molto interessante e che piace ai nostri ascoltatori. Tra l'altro ci sono anche gli inserti domenicali del Sole 24 Ore dedicati al mondo del gioco, in particolare 2 settimane fa ce n'era un paginone centrale dell'inserto e quindi insomma sono molto contento che piaccia questo argomento. Andrea Rigabue, che è con me, ludologo, ha veramente molte cose da raccontare, perché il suo mestiere è giocare. Ci sono anche tante domande per te e volevi fare una citazione perché volevi parlare di Lego per quanto riguarda le istruzioni, se no, non esatto, sbaglio, tu vero? Prima sì, mi dicevi che una componente importante anche del giocare, specialmente dei bambini, è la voglia poi di cambiare le regole e giocare, sì, alla propria maniera. Allora dicevo che Lego, questa cosa qua l'ha istituzionalizzata nella sua linea di giochi da tavolo Lego Games, che è uscita nel 2010. Praticamente c'è proprio scritto alla fine del manuale delle istruzioni, vengono suggerite sempre 3-4 varianti e poi l'invito ai bambini a dire: ma pensate voi come si può giocare questo gioco in maniera diversa. Ovviamente i Lego si prestano, perché basta cambiare la posizione dei pezzi, si crea una mappa nuova, si cambia il dado e si crea un dado nuovo, e questo sicuramente aiuta. Però in generale questo voglia di poi giocare un gioco con le regole proprie, che a noi del settore un po' sempre spaventa, perché uno dice: un autore ha dedicato ore e ore a un gioco, l'abbiamo playtestato così e poi lo giocano in maniera diversa. Però è una cosa lecita, e anzi, se il gioco risulta più divertente per voi, fatelo. È giusto farlo, basta che sono d'accordo tutti i giocatori, non che uno si inventa le regole e non le comunica agli altri, perché poi intanto Diego Baldoin, ciao. Ciao Stefano, ciao Andrea. Ciao. Una ciao delle voci qui ufficiali di Radio 24, ma chi gioca ai videogiochi riconosce anche altre voci di personaggi, poi ne parliamo sicuramente. Giochi, allora, tante domande, io pesco un po', Andrea. Giochi didattico musicali? Sulla musica? Allora, io sai che avevo un gioco quando ero piccolo, non esiste più, adesso lo racconto agli ascoltatori che magari l'hanno trovato da qualche parte nel mondo, fatemelo sapere. Era così, era una sorta di carry-on. E c'era una sorta di tombola, è il gioco, tu avevi un casellario, ma al posto dei numeri c'erano i titoli delle canzoni. Allora si prescavano queste strisce, ogni striscia era forata, la inserivi dentro questo marchingegno, giravi la manovella e suonava una musica, ok, con l'aria che usciva. Tu dovevi riconoscere la canzone e se l'avevi in casella segnarla. Quindi una tombola, ma la cosa bella è che dovevi riconoscere la canzone, non è come il numero, che quello lo sappiamo. Mai più visto, non ce l'ho più, non so che fine abbia fatto, sono disperato, era bellissimo. No, no, comunque giochi specifici sulla musica mi colgono impreparato. Allora sull'arte. Sull'arte, allora, Fresco è sicuramente un gioco che parla di arte, è un successo di 2 anni fa molto molto importante, ed è un gioco in cui praticamente i giocatori sono dei pittori che devono dipingere questo affresco, quindi devono girare, trovare i colori giusti e fare le cose. Ovviamente l'arte viene toccata marginalmente. Mi viene in mente un gioco che è un po' ostico come regolamento, però bellissimo, che è Siena, fatto da un italiano, che la mappa di gioco è il dipinto delle allegorie del buono e del cattivo governo di Lorenzetti, cioè quindi proprio la mappa di gioco è quel dipinto lì. Insomma, ce ne sono. Giochi magari sull'alimentazione. Allora, giochi sull'alimentazione umana, anche lì al momento non mi viene in mente. Proprio l'altro giorno ero in Vitacraft, invece, che ho scoperto che è un'azienda che fa alimentazione per animali, che ha fatto una linea di giochi per animali, quindi per cioè, che parlano di animali, cani, gatti, così, in cui il bambino impara come ci si prende cura e come si alimenta un animale. Però non li ho ancora provati, quindi non posso dire, però ho scoperto che esistono. Allora, giochi da tavolo per diversamente abili? Allora, lì bisogna capire cosa si intende per diversamente abili. Chiaramente uno che ha difficoltà motorie può fare tutti i giochi da tavolo normali, perché alla fine giocare da tavolo si sta seduti. Invece, diciamo, dipende che tipo di giochi si fanno. Ci sono alcuni giochi interessanti, ad esempio, che possono essere giocati da persone cieche, perché hanno una componente importante nel gioco basata sul tatto. E mi viene in mente ad esempio un gioco recente di una ditta svizzera, adesso il titolo esatto non mi ricordo, che magari se mi scrivete via mail vi rispondo poi in maniera più accurata. E ci sono giochi ad esempio che potenziano la memoria, penso ad esempio anche solo Fantascatti o dei giochi di riconoscimento ad esempio come Doble, che stimolano l'attenzione, quindi possono essere utilizzati in certi contesti. È chiaro che parlare di disabili è un argomento vasto e bisogna capire che tipo di disabilità. Lupus in Tabula, Resistance e Bang. Allora, Lupus in Tabula è un gioco molto bello, è un gioco in cui mi sembra rischia tutto. Esatto, no, in cui praticamente in un villaggio sono arrivati, ci sono degli uomini lupo nascosti tra i personaggi. All'inizio del gioco tutti i giocatori hanno una carta, alcuni sono uomini lupi, altri no, e nel corso della partita gli altri giocatori devono scoprire chi sono gli uomini lupi. Ah, ma è quello che puoi giocare anche con come scrivendo su un fogliettino. Noi un tempo giocavamo l'assassino con le carte. Sì, ho vinto. ho bleffato benissimo. No, quindi Lupus in Tabula è molto carino. Bang è un altro gioco dello stesso editore di Lupus in Tabula, che è un gioco su pistoleri, e anche lì c'è lo sceriffo, gli altri, anche quello è divertente, diciamo. È una sorta di gioco di ruolo. Sì, il vantaggio di Lupus, no, non un gioco proprio di carte. Il vantaggio di Lupus in Tabula è che uno dei, diciamo, dei pochi giochi che possa essere giocato anche in 20-30 persone. Sì. Quindi, ad esempio, mia figlia lo giocavano per la ricreazione in classe, gliel'avevo dato. E The Resistance è un altro gioco molto bello, con una dinamica basata tutta sulla discussione, che è uscito quest'anno in italiano, e sono tre titoli che io mi sento di suggerire. Winter Tales. Winter Tales è un progetto interessante di una giovane ditta italiana ed è un gioco che mischia caratteristiche tipiche del gioco di ruolo con caratteristiche tipiche del gioco da tavolo, quindi è un gioco in cui conta molto anche l'aspetto narrativo, perché infatti nel corso della partita si sviluppa come una storia, però anche con delle meccaniche tipiche dei giochi da tavolo, quindi non è un gioco narrativo, perché ce ne sono tanti ed è un genere molto diffuso, ma una commistione dei due generi secondo me è molto molto interessante, ad un autore italiano nuovo e di una ditta, l'Albe Pavo, italiana nuova, e ve lo consiglio. Se vi piacciono i giochi narrativi è veramente bello, anche graficamente molto curato. Francesca Dragotto per i giochi di parole. Ciao Francesca. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, senza sigla, perché oggi abbiamo capito che parlano di giochi qua le cose un po' cambiano, quindi nessun senti chi parla, ma sentiamo parlare te invece, parlando di giochi di appunto parole. Sicuramente non sentiremo parlare Silvio Berlusconi, che sarebbe stato oggetto della nostra disamina chiacchierata. Lo sarà oggi. Nelle prossime puntate. Lo sarà, esattamente, anzi nella speranza che nel frattempo ci conceda altri discorsi da analizzare. Giochi di parole, i giochi di parole sono tanti, sono utili perché rafforzano la competenza linguistica, però se mi è concesso, il gioco che di più in assoluto richiama la lingua è il Lego. Leggot gioca bene. Perché il funzionamento, quello che permette di passare dal mattoncino alla costruzione vera e propria, quindi la casa, qualunque tipo di costruzione, mette in atto gli stessi meccanismi che, partendo dai singoli suoni, permettono poi, per stati successivi, di arrivare alle frasi. Per cui è proprio il gioco che in assoluto ci fa capire meglio come funzioni la struttura linguistica. Dal punto di vista etimologico, sarò brevissima, è interessante che il termine per giocare compaia nel latino medievale, ma per significare i giochi di parole, non i giochi di azione. Per quello c'era il termine ludus, che è rimasto in italiano, ma come aggettivo, come forma alternativa rispetto appunto a gioco, giocare, che ha pervaso il nostro sistema linguistico. Il termine giocare comunque è comune a tutte quante le lingue romanze, a riprova della fortuna che questa voce, che nel latino classico non c'era, ha guadagnato poi in tutto l'ambito appunto romanzo. Senti, ludologo, visto che Andrea si è definito tale, che un po' non esiste, ti piace? Mi piace, cosa che stai dicendo? Perché io, che ho fatto degli studi classici, mi vergogno, perché ludologo mischia latino e greco, quindi adesso Francesca, poi a lei piacciono questi misti. Normalmente è vero, i composti cosiddetti neoclassici mantengono i due formanti o entrambi dal greco o entrambi dal latino, però diciamo che è una parola che non stona, proprio perché si inserisce in quel paradigma fatto delle varie logie o dei vari loghi, che fa sì che, o logi, insomma, a seconda poi della parola, che fa sì che il termine appaia perfettamente normale. Mi piace perché conferisce giustamente un tono di serietà alla sfera semantica del ludus, alla sfera del ludico, che, come abbiamo visto anche in altre puntate, invece insegna. Certo. Grazie Francesca, ci sentiamo poi la settimana prossima. Grazie ovviamente. A voi, buona domenica. A te. Il riposo del guerriero. Qualcuno addirittura cita il geocaching, ma io ne avevo già parlato in una puntata, avevo fatto una puntata dedicata a quello, che è un altro tipo di gioco, è il cercare tesori in giro per il mondo grazie a un GPS, e questo permette di conoscere anche dei luoghi che altrimenti non si sarebbero mai visti. Ne avevamo parlato proprio un po' di puntate fa. Volevo chiederti, Andrea, i maschi e le femmine si comportano in modo diverso quando giocano? Sì, allora adesso è sempre brutto generalizzare, la mia esperienza è che ai maschi piacciono di più i giochi competitivi dove la competizione è distruttiva, cioè io vinco perché distruggo qualcosa a tuo, mentre le femmine amano molto i giochi, anche loro competitivi, in cui la competizione è io vinco perché costruisco qualcosa meglio di te, cioè la mia strategia, quindi sembra una sfumatura, però sono due giochi di tipo molto diverso. Io non la vedo per niente una sfumatura, la vedo una gran differenza. No, e quindi diciamo, di base questa è la differenza. Poi le femmine tendono ad apprezzare molto i giochi in cui c'è comunque una parte interpretativa, di interazione, di discorso, di diplomazia, diciamo, basata sul dialogo. I maschi a volte queste cose qua le rifiutano, però dico, è un discorso molto... Sì, ma stiamo generalizzando, esatto. Ma perché magari, appunto, cioè, siccome abbiamo fatto anche delle puntate maschi contro femmine, piuttosto che... perché ci sono delle differenze che sono forse un po' scritte geneticamente nell'atteggiamento. Sì, ecco, diciamo che in Italia la cosa curiosa è che ancora oggi, ma per fortuna sta cambiando, rispetto ad esempio a un mercato francese o al mercato tedesco, il gioco da tavolo è ancora prevalentemente un'attività maschile, mentre in altri mercati è proprio una cosa di famiglia e anche insomma misto. Quindi le nostre associazioni di giocatori sono ancora prevalentemente associazioni maschili, anche se in alcune, diciamo, la presenza femminile fortunatamente sta diventando significativa. Chi è che rispetta di più le regole? Se c'è una differenza fra maschio no, e femmina, no, in linea di massima no. Diciamo che quando si gioca si tende a rispettare le regole. Sempre. Fortunatamente non sono tanti quelli, anche perché rovinano il gioco e rovinano il divertimento per tutti. Parliamo di queste due manifestazioni. Sì. Allora, una è Ludo. Siamo a Modena, giusto? Sì. Saremo a Modena il 23-24 febbraio. Per che cosa? Allora, è una manifestazione nuova nata da, diciamo, delle persone che forse non sono neanche dentro il mondo del gioco, quindi questo è significativo, che vogliono organizzare una manifestazione dedicata al gioco come strumento educativo, quindi rivolto sia agli insegnanti ma anche e soprattutto ai genitori che si chiedono cosa posso insegnare e che giochi posso fare con mio figlio per insegnargli qualcosa. Dicevo, è significativo che siano persone fuori dal mondo del gioco che propongono questo, perché vuol dire che comunque l'argomento del gioco e questa problematica è una problematica sentita e che sta diventando diffusa. Quindi sono curioso, mi hanno contattato, mi hanno coinvolta a dargli una mano per alcuni aspetti, sono curioso di vedere che successo potrà avere, perché è una manifestazione nuova. Invece poi il 6-7 aprile ci sarà Play, sempre a Modena. Play, il Festival del Gioco, diciamo che è l'evento per i giocatori più importante nel panorama italiano, è la fiera, diciamo il festival proprio dove si va a giocare, a conoscere i giochi, a provarli, a giocarli, partecipano tutti gli più importanti editori del settore ed ha la caratteristica di proporre il gioco in tutte le sue sfaccettature, quindi giochi da tavolo, giochi di ruolo tridimensionali, giochi di ruolo dal vivo, giochi di carte e anche una parte videogames, quindi diciamo una fiera a 360 gradi in cui il pubblico entra e viene a giocare, cioè. Quindi diciamo non è spettatore ma partecipa in prima persona. Tra l'altro, legata a Play, ci sono anche eventi culturali in collaborazione, in programmi in collaborazione con l'università, quindi diciamo è anche un momento, un'occasione per riflettere poi in maniera anche profonda sui significati del gioco, sulle implicazioni del gioco nei vari aspetti. Avremo modo di parlarne anche nel Riposo del Guerriero, visto che comunque parliamo di febbraio per il primo evento e per aprile questo secondo evento. Marsala, ciao, buona domenica. Marco Salemi, buongiorno a te Stefano, buongiorno. Un grande appassionato, giocatore ovviamente di World of Warcraft, che è un gioco. Cosa succede in World of Warcraft, Marco? Intanto bisogna avere un computer, diciamolo subito. Sì, bisogna avere un computer, è un gioco online in cui uno si fa un account nel sito e entra in un mondo persistente che esiste 24 ore su 24 con il suo personaggio e entra nell'esatto punto in cui lo ha lasciato quando è uscito dal gioco la volta prima. Ecco, qui incontrando poi personaggi che sono finti dentro il gioco, ma veri perché sono mossi da altri giocatori in tutto il mondo, no? Esatto, infatti è molto importante l'aspetto sociale di questo tipo di giochi. I giochi di ruolo online in questo senso hanno il grande, forse privilegio, di agglomerare le persone. Nel mio caso io ho fatto una gilda, così sì. Si chiamano... un'unione di persone, chiamiamole così. Esattamente. Sì. E l'ho formata nel 2005, voi dovete pensare che è un gruppo di persone che ormai si incontra ogni anno, noi andiamo a Lucca per il Lucca Comics ogni anno, ma lo usiamo come punto di incontro da tutta Italia e facciamo raduni ormai da 7 anni, siamo tantissimi. Venite anche a Play a trovarci. L'invito da andare anche a Play certo, a Modena. Certo, perché no? Ecco Marco, e quindi queste persone, questa gilda che tu hai creato, no? E l'hai creata con persone che non conoscevi, che hai conosciuto attraverso il gioco? Esattamente, l'ho conosciuto attraverso il gioco, poi ho coinvolto anche qualcuno che conoscevo, infatti io sono di Spoleto e ce ne sono almeno altri 4-5 di Spoleto in Umbria, ma siamo da tutta Italia, diciamo. Ecco, Marco, e tu chi sei nel gioco? Allora, perché sono, si può... sono un warlock, uno stregone, anzi adesso approfitto di questo per ricordare che World of Warcraft è stato appena tradotto in italiano con l'ultima espansione, quindi è giusto anche usare la terminologia appropriata, visto che siamo da 7 anni con l'inglese, non che ci sia nulla di male, anzi assolutamente ha avuto il suo lato positivo perché ha fatto imparare anche ai più piccoli. Ricordiamo World of Warcraft è un gioco che dai 12 anni in su, quindi comunque sia anche i più piccoli hanno avuto la possibilità di imparare l'inglese, ma con l'italiano sicuramente abbiamo avuto l'apertura a tutti i non anglofoni e anche chi non ci si era avvicinato mai, insomma. Ecco, tra l'altro diciamo che è un gioco che si adegua come difficoltà al giocatore, per cui si comincia in modo semplice, poi mano a mano i livelli salgono, le cose diventano sempre più difficili, per cui diventa interessante anche da questo punto di vista. Ed è un gioco infinito, perché non finisce mai, no? Infatti è proprio quello, se vogliamo, l'unico neo che gli si può trovare, cioè il fatto che richiede tanto tempo e che comunque se uno non sta attento può in un certo senso creare dipendenza. Sì, sì, ma qualcuno anche qui in radio, non faccio nomi, ma è un appassionato, ecco, diciamo. Ma bisogna sapersi regolare sicuramente, però chiaramente quando uno lavora, come per esempio me, le ore che rimangono nel giorno più sono ai quelle, figli, non è facile. Lo so. Grazie Marco Salemi, in arte Marsala, insomma complimenti per questa tua forza, però devo dire che World of Warcraft ha conquistato milioni, adesso non mi ricordo il numero, ma è impressionante in tutto il mondo. Siamo stati moltissimi, 12 milioni, adesso dovrebbero essere intorno ai 10, quindi insomma. Quindi insomma la quantità è veramente grande. Grazie Marco Salemi, ciao. Niente. Riconoscete questa voce? Claudia, mia cara sorella, sono ad Acri ormai da una settimana, in buona salute, ma preparato al peggio. Gli uomini e le donne che mi hanno nutrito e ospitato qui mi hanno altresì avvertito che la strada per Masyaf è infestata da mercenari e banditi originari di altre terre. Che strada impegnativa, ciao Diego. Impegnativissima, ciao Stefano. Allora, oltre che essere voce ufficiale della radio, sei anche una voce ufficiale di molti videogiochi. Questo forse è il più famoso, nel senso che Assassin's Creed Revelation. Direi proprio di sì. Adesso è uscito un nuovo Assassin's Creed, Assassin's Creed 3, il personaggio è Connor, siamo negli Stati Uniti, ne ho parlato nella rubrica sui giochi e videogiochi, ma la tua voce non c'è, perché il personaggio è un altro, proprio esatto. Diverso. Allora, quando si parla nei videogiochi, ormai si doppiano da tempo, sì. E grazie anche a Max Reino, scusate, un mio collega di molti anni fa che aveva questo sogno di localizzare i giochi, quindi tradurli in italiano e poi addirittura doppiarli, e devo dire che il sogno poi si è tramutato in realtà con grandissimo successo a livello internazionale. E quanta cura si mette nel doppiaggio di un videogioco? C'è una cura crescente. Negli anni c'è stato un incremento visibile, palese, nella cura per quanto riguarda l'aspetto della localizzazione, sì, del doppiaggio, che va di pari passo con la crescita cinematografica dei titoli. Stanno diventando sia a livello di trama che di realizzazione tecnica sempre più simili a film, e anche il doppiaggio sta cercando di seguire la stessa strada e quindi andare in quella direzione. Ecco, la difficoltà è che voi non avete davanti, cioè mentre nei film tu vedi la scena, invece tu non vedi niente. Non vedo niente, non vedo niente, si doppia al buio, a nero, e l'unico riferimento che un doppiatore ha a disposizione, oltre alle indicazioni del direttore del doppiaggio, è quello dell'originale, quindi del doppiatore originale che per primo ha dato la voce al personaggio. Ecco, ma quindi anche le intonazioni non sono facili. Come fai a sapere che intonazione devi dare a una frase? Dunque, ci si rifà molto appunto al file originale, alla lingua originale, sì, che spesso appunto è l'inglese. Ci si aiuta poi con le indicazioni date dal direttore, insomma, del direttore del doppiaggio. E ci sono delle parti noiose, immagino, da doppiare, tipo Oddio, quelle sono anche divertenti. Anche divertenti a volte. Diciamo che nei titoli di guerra può capitare, nelle scene di battaglia. Sì. Insomma, il lavoro spesso un po' ripetitivo, però va bene, insomma, anche ci si diverte. Il gioco poi deve mettere insieme tutto quanto. Esatto, ci sono parti più divertenti, ovviamente, parti un pochino più rispetto meccaniche. A un film. Lo trovi più impegnativo o meno impegnativo, uguale o meno divertente, magari perché non hai l'altra persona. A volte i dialoghi non sono con l'altra persona, sono singoli, cioè parli con qualcun altro, ma in realtà questo qualcun altro non è davanti a te, non è davanti a me, non so spesso quali sono le battute dell'altro personaggio, quindi è un dialogo realizzato a mo' di monologo, ecco, in realtà, allora spieghiamo quindi... che non sa le battute della risposta, semplicemente perché in molti giochi le battute della risposta cambiano in base a quello che succede, quindi non c'è un unico, ma ci sono tanti dialoghi possibili. Esatto, poi le battute sono spesso sterminate, soprattutto nei titoli più importanti, quindi sarebbe anche difficile logisticamente, insomma, offrire sempre la battuta di servizio all'attore. Rispetto al film, al doppiare un film, sono lavori molto diversi, perché quando si deve doppiare un umano si ha comunque un riferimento video che lega molto, cioè, costringe a una direzione verso la quale, insomma, non c'è molta libertà d'azione. Mentre nel videogioco si è sicuramente più liberi, ma è anche vero che doppiare in questa condizione di nero, di buio, insomma, insomma sono rende in molto sono difficile. Sono due mondi diversi e difficili entrambi per motivi diversi. Sono simili ma diversi, e forse inizierà una commistione fra le due cose. La tecnologia è più potente e noi più deboli. Abbiamo costruito computer, robot, armate interamente automatizzate. Ma cosa succede quando il nemico ruba le chiavi? Quando gli aggeggi che abbiamo costruito per difenderci sono stati rivolti contro di noi? È allora che si sono resi conto che avranno sempre bisogno di uomini come noi. Uomini disposti a fare ciò che gli altri non possono. Questo è Black Ops 2, grande successo. Abbiamo due guerre, perché abbiamo il 2025, quindi una guerra futura, e anche le guerre degli anni 80. È un gioco straordinario che sta avendo grandissimo successo, e devo dire che anche la battaglia in singola, spesso i giochi di guerra sono belli perché si possono affrontare insieme agli amici online, tra l'altro parlandosi, anche quindi comunicando ai propri compagni gli spostamenti e che cosa fare. Ma devo dire che questo secondo Black Ops è straordinario, perché anche la campagna singola, quindi se volete giocare da soli, darà grande soddisfazione. Addirittura poi la storia può anche modificarsi e cambiare. Allora, Diego Balduin è stato uno dei doppiatori di uno dei protagonisti. Sì, esatto, di Mason. David Mason. E lì avrei un sacco di Ma rispetto ad altri capitoli meno precedenti di perché qui c'è molta più storia. Scusami, voglio ricordare che la sceneggiatura è stata creata da David Goyer, che è lo stesso di Batman Begins, The Dark Knight Rises, per cui insomma un grande sceneggiatore, e quindi la storia è molto molto interessante. Ma infatti questo strizzare l'occhio al cinema, anzi più che uno strizzare l'occhio, si vede, si percepisce tanto. Infatti i videogiochi ormai sono diventati questo, no Andrea? Sì, sono delle vere opere quasi cinematografiche, come musiche, come video, queste cose qua. Ma anche il mondo del gioco da tavolo si sta andando in questa direzione. Ad esempio nei materiali sempre di più si usano, invece che le vecchie pedine di cartone, delle miniature scolpite che rappresentano. Poi prima parlavate di World of Warcraft, ad esempio c'è una trasposizione di gioco da tavolo molto divertente, quindi diciamo le commistioni tra i generi e anche questa direzione che si sta intraprendendo del gioco come anche evento narrativo, artistico, così è indubbia. È vero, i videogiochi spesso diventano romanzi e viceversa, e addirittura le voci poi entrano, ad esempio quella di Giancarlo Giannini. Sembra di capire che da diversi anni, insomma, i videogiochi affascinano sia i bambini che i grandi soprattutto. È il cinema che cerca di imitare la tecnologia dei videogiochi, o perlomeno anche addirittura la forma di scenografia e di sceneggiatura. Doppiare un videogioco è la prima volta che io doppio un videogioco, mentre ho doppiato molti film, molti attori. Adesso facciamo allora la prima questa e poi la seconda è l'ultimo. La tua tecnologia ti ha abbandonato. Sono qui. Oppure sono la differenza è che non hai l'immagine, quindi devi più o meno sentire più o meno delle voci, quindi devi andare, credo, a sincrono, perché c'è un diagramma. La cosa mi diverte molto, mi diverte anche seguire quest'onda e dargli un ritmo, e insomma riesco a divertirmi a buttare la voce nell'aria con le intonazioni, che spero siano poi quelle giuste. Cordistia! I miei personaggi sono sempre quasi sempre stati buoni, però a me sono sempre piaciuti i cattivi. Devo davvero ricordarti che fine fa chi delude le mie aspettative. Eccolo qua, insomma, Giancarlo Giannini, è la prima volta che una voce così importante si è prestata ai videogiochi, sì. Quindi questo segnerà un inizio, immagino. Sicuramente sì, ci sono già stati altri, contestualmente a Call of Duty, anche in Assassin's Creed 3, sì. Che abbiamo citato prima, la voce di Connor, quella di Nisimo Norato, che insomma un grande doppiatore con moltissima esperienza sia al cinema che in altri prodotti, quindi la direzione è quella, insomma, è segnata, si va verso speriamo una commissione. Speriamo che i mondi coincidano anche per il vostro mestiere, insomma. Speriamo, ecco, speriamo. Questo sì, non sì. Deve succedere così. È vero che voi spesso non conoscete la trama dei giochi, perché non viene rivelata, perché siccome doppiate molto prima dell'uscita non vogliono che si dicano cose che non devono essere dette. È così, è la norma, purtroppo è la norma, anche perché spesso la trama viene cambiata strada facendo, quindi capita di doppiare delle scene che poi in realtà in un secondo momento vanno ridoppiate perché cambiano la casa delle di produzione cose. Cambia l'evoluzione della trama drammaturgicamente, sì. Quindi c'è da ridoppiare, quindi insomma il nostro accesso alle informazioni è limitatissimo. Che invece dovrebbe essere grande, perché per capire l'intonazione, che cosa bisogna raccontare, bisognerebbe conoscere anche la storia. Invece a volte succede questo e quindi sarebbe è più difficile. Sarebbe meglio. Quindi i videogiocatori non si lamentino quando trovano delle discrepanze nel doppiaggio, nell'intonazione, ma non è colpa né dei doppiatori né dei direttori di doppiaggio. Esatto, siamo noi i primi a essere dispiaciuti. Esatto, così poi dà fastidio. Grazie a Diego Baldoin, siamo a te, veramente in ritardo. Io volevo salutare Andrea Ligabue, semplicemente se vuoi dare il modo per contattarti, perché credo che molti ascoltatori comincino a scriverti proprio da oggi. Allora, vabbè, a parte il sito che avevi già detto, mi potete scrivere via mail ad andrea.ligabue@ludologo.com. Ecco, il sito è ludologo.com, sì. Perché l'avevo già detto, magari qualcuno sì. Però se l'è dimenticato. Grazie, buon ritorno a Modena. Grazie e mille. Diego Baldoin, non ti sentiamo qua in radio, per la tua voce è sparsa per il programma. Il gastronauta. Ciao Davide, a cosa stai giocando? Buona domenica. Beh, in questo momento no. In questo momento non sto giocando a niente, però sicuramente se avessi il Monopoly giocherei col Monopoly, che era il mio gioco preferito. Ecco, fai arrabbiare il nostro Andrea Ligabue, è stato ospite, che dice: ma perché si citano sempre i giochi vecchi? Cioè quei giochi vanno bene, però fanno parte della vecchia letteratura, no? Ma non sono mi anche importa, cose nuove. Guarda, addirittura la battaglia navale, preferirei. Va bene, A4, F5, buco o colpita. Esattamente. Proprio così. Oppure lo Shanghai. Vabbè, quello un po', insomma, bisogna capire se c'è anche una legge fisica che determina la caduta dei bastoncini come vanno raccolti. Di cosa ci parli oggi, Davide? Ma guarda, stavo pensando mentre ascoltavo appunto questi giochi di cui si parlava, che sono anni che sto meditando su un gioco del gastronauta. Sì, potrebbe essere. Un gioco del gastronauta, perché si potrebbe girare l'Italia, diciamo, sul come il Monopoli, per esempio, come modello, e quindi scoprire territori, scoprire prodotti, scoprire vini. In questa maniera si potrebbe insegnare sia la geografia, sì. E allo stesso tempo si potrebbe anche insegnare così le ricchezze che ci sono in Italia, magari ai bambini. Assolutamente, e sì. Magari... Ho già in mente, guarda, anche la carta degli imprevisti, tipo i NAS vengono nel tuo ristorante e scoprono che non ha... ma è vero, quindi sì, paghi la multa di... questo potrebbe essere un imprevisto, ma gli imprevisti potrebbero essere anche magari di problemi alla frutta, sì. O problemi al vino, o problemi... Ho problemi al il fruttivendolo non è riuscito a fornirti la verdura necessaria per preparare la tua passata, per cui devi chiudere il ristorante perché il tuo piatto principale non può essere venduto. Sì, certo. Però, ci sono giochi, sentivo prima anche di un formatore, sì. E una volta mi è capitato di partecipare, mi hanno chiesto di partecipare a una convention bancaria, e io mi sono inventato un gioco a tavola, che per coinvolgere un po' i personaggi, era un gioco basato sull'olio d'olivo, sulla identificazione degli oli d'oliva extravergine. Perché? Perché quando si fa l'analisi sensoriale di un olio, si parte dai difetti, quindi bisogna scoprire i difetti. Allora tu puoi camuffare l'olio, gli fai scoprire i difetti, che sono 5, però al tempo stesso è un discorso che può essere paragonato alla ricerca che fanno i bancari sulle indagini appunto delle aziende a cui devono dare i soldi, finanziamenti, sì, che si parte sempre dai problemi delle aziende, poi si arriva al positivo. Certo. Quindi era un'analogia di questo genere. È interessante, tra l'altro, perché è curioso come si parte da una cosa contraria a quella che normalmente si potrebbe pensare. Stavo pensando anche al fatto che anche il cominciare a conoscere i vini può essere un po' un gioco, no? All'inizio, quando devi imparare a sentire le essenze, i profumi, per poi riconoscerli nel vino. E quindi anche l'approccio è sicuramente ludico, no? Almeno all'inizio. Sai che ci sono delle scatole ad hoc? Sì. Fatte da un francese con tutti i profumi che contengono larga parte dei vini, e quindi c'è un discorso di allenamento. Allora tu questo allenamento lo devi fare alla cieca, quindi devi identificare i sapori, i profumi, un po' di tutti i vini. Solo che questi fatti meccanici sicuramente non rendono poi, perché sai, la memoria sensoriale o ce l'hai o non ce l'hai, e la memoria è basata tutta sui ricordi. Quindi sì, se da piccolo non hai identificato profumi e sapori, quelli veri, su frutti oppure su fiori, non ci riuscirai mai. Dici più. Dici che più tardi è difficile, però insomma, potrebbe essere una buona idea anche per Natale, no? Una scatola per imparare a conoscere profumi e sapori. Poi se ci riesci bene, se non ci riesci ti sei sempre divertito e hai conosciuto qualcosa in più, va sempre bene, no? Alla fine. Certo. Grazie Davide, ci sentiamo domenica prossima. Buona domenica. Buon gioco. Ciao, grazie. Ciao. Per voi, a proposito di gioco, c'è Guardi in 24 minuti, la possibilità di andare alla mostra di Francesco Guardi, che è a Venezia, fino al 17 febbraio dell'anno prossimo ovviamente, e avere anche il catalogo di questa mostra straordinaria. Francesco Guardi in 24 minuti. Dovete semplicemente associare il titolo di un'opera di Guardi alle canzoni che vi faccio ascoltare. Il numero per prenotarvi 800240024. La canzone per cominciare è questa. Come triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei. Eccolo qua, allora questa è la prima canzone, il primo titolo da indovinare, come Triste Venezia, Charles Aznavour, l'avete sicuramente riconosciuto. Nelle parole c'è proprio il titolo di questa opera di Guardi, che è una delle cose più classiche che si possono vedere quando si va, per esempio, in Piazza San Marco. Francesco Guardi in 24 minuti. Giuseppe della provincia di Ragusa, ciao. Buongiorno. Allora, saluto Giuseppe, quando gli ascoltatori. Grazie. Quando sei, non so, in Piazza San Marco, sei mai stato in Piazza San Marco? Sì, una sì, volta. Una volta, va bene, però anche quando Venezia la serie nei film, c'è una cosa che si vede proprio lì, è proprio l'icona, non parliamo di monumenti, c'è un'icona di Venezia che è la... La cupola del campanile lì di Piazza San Marco. No, ho detto non parliamo di monumenti. Giuseppe, di più come posso aiutarti di più? Però fa niente, guarda, potevi anche aver acceso adesso, ma in realtà... No, ho cercato di ricordarmi quando sono andato, ma... Niente, ma è la cosa proprio più ovvia, guarda, vabbè. Ciao Giuseppe, mi dispiace, ciao, che rabbia. Rita, dalla provincia di Modena, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, salve. Rita. Allora, come ciao. Si chiama quest'opera di Guardi? È la cosa più ovvia. Gondola sulla laguna? Ah, ce l'abbiamo fatta. C'era proprio più semplice di così. Ma la prossima. Sono contentissima. Ecco, veramente. Per te. Grazie. L'ingresso alla mostra e poi grazie. Anche il bellissimo catalogo. Grazie a te, grazie Rita. A voi. Ciao. Grazie. Giorgio da Treviso, pronto? Sì. Giorgio, ciao, buongiorno. Prego. Allora, il prossimo dipinto che dovrai indovinare ha un titolo ancora più semplice di quello che abbiamo appena detto. Cioè, questo di adesso era Gondola sulla laguna. Questo titolo, cambiamo quadro, è veramente più semplice, è ancora più ovvia. E la canzone alla quale è legato è questa. E la luna in silenzio. ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada, luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda, baia e se ne va. Allora, eccoci qua, Giorgio da Treviso. Pronto, Giorgio? Purtroppo si sente male per telefono, non ho sentito niente. Come non hai sentito niente? Ma ti dico io, guarda, la canzone che abbiamo ascoltato era una vecchia canzone di Dalla, di Lucio Dalla, si intitolava Anna e Marco. E quindi il titolo dell'opera di Guardi ha a che fare con questo titolo, Anna e Marco. Beh, e San quindi, Marco... Quindi cos'è che ti viene in mente pensando a Venezia e pensando a... Carnevale? Ripeto la domanda. Cos'è che ti viene in mente pensando al titolo della canzone e a Venezia? La cosa più ovvia? Qual è il titolo? Anna e Marco. La Basilica di San Marco? Eh no. Che rabbia. È facilissimo, di più. Mi dispiace, Giorgio, mi dispiace. Okay. Ciao, ciao, grazie, ciao. Pierangela da Bergamo, Pierangela. Sì, ciao. Ciao. Allora, ci riproviamo con te. Cos'è che ti viene, ti viene in Piazza mente? Piazza San Marco. Piazza San Marco. Anche per te l'ingresso alla mostra e la guida ovviamente di Francesco Guardi del il catalogo della mostra. Grazie, grazie Pierangela. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Altra canzone, altro dipinto, anche questo con un titolo facilissimo, sempre di Francesco Guardi, che dovrete indovinare. Questa è un'altra canzone a Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia, Pescatore, e c'è Dora da Pistoia. Ciao Dora, buona domenica. Buongiorno. Allora, vediamo... quella di prima l'avrei indovinata. Vabbè, allora, era facile, ma anche allora... questa, allora aspetta, con calma, ok. Allora, questa è la storia di un pescatore. Cos'è? Lei è molto preoccupata, ma anche lui, per qualcosa che può succedere in mare. Una tempesta. Esatto, una tempesta o una burrasca. Una burrasca. E quindi ride. Meraviglioso. E quindi sarebbe il titolo dell'opera è una burrasca in mare, una tempesta in mare. No, la tempesta è burrasca di burrasca di laguna? No. Aia. Dai, non posso, cosa devo fare? Io faccio dire. No, ho fatto anche troppo, va benissimo. Però voglio dire, mi dispiace. Cioè, non dovrei darti il premio, però vorrei dartelo lo stesso. Riprovaci ancora, non è proprio di laguna, ma è quello che abbiamo detto, quindi la burrasca di Venezia. Dora, che rabbia! Che rabbia, pazienza! Ciao, mi dispiace. Mi piacete lo stesso. Ti ringrazio, grazie. Buon anche Natale. A te. Però mi dispiace, è Sara dalla provincia di Como. Sara? Sì, buongiorno. Ciao. No. Mi dai tu la risposta per cortesia, Sara? Burrasca di Dovresti vedermi la mia faccia in questo momento. Onestamente non so, perché Venezia è già stato detto, non ho idea di che cosa sia. Burrasca di lì, quella cosa lì. Niente. Ciao Sara. Di mare. Oh, burrasca di mare, eccola lì. Sul filo del rasoio proprio, eh. Brava Sara, grazie. Grazie. Ciao, però anche ad ora bisognava dare o la catalogo o il biglietto, se lo sarebbe meritato sicuramente. Grazie a Giorgio De Luca, redazione, a Nadia Zammetti, che oggi era una grande fan dei giochi, era lì tutta contenta, grazie. In assistenza Paolo Corleone, in regia, e a voi ci sentiamo domenica prossima, puntuale alle 10 con il riposo del guerriero. Buona settimana da Stefano Gallarini.